Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati a Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Io sono Enzo Argante, il traghettatore. Un viaggio oggi particolare, vedrete, schizzeremo da una parte all'altra del globo e con mezzi diversi. Andremo col nostro ferryboat fino in Guatemala, poi torniamo e giriamo per le città della Lombardia in un viaggio tanto importante quanto, vedrete, significativo. Ma sentiamo subito quali sono gli argomenti che affronteremo oggi. Dal Guatemala con amore per l'Italia. Giovani, amanti e studenti Italian Oriented hanno deciso di fare gli imprenditori per bambini e nasce una scuola materna tricolore. Il pulmino full optional di Fondazione Cariplo porta i contributi a domicilio, viaggio nella Lombardia dell'impresa sociale che punta all'innovazione sostenibile. La Charity Card per l'emergenza Haiti adesso si trova nel carrello della spesa, grazie ad una iniziativa Epipoli Agire che coinvolge la grande distribuzione. E per affrontare questi argomenti in studio con me Dario Bolis. Buongiorno Dario Bolis. Buongiorno a tutti. Che è responsabile della comunicazione di Fondazione Cariplo, quindi diciamo il protagonista fra i protagonisti di questo viaggio incredibile per le città della Lombardia, di cui fra poco parleremo con lui. Intanto invece vi abbiamo preannunciato questo viaggio planetario su Guatemala, da dove ci ascolta in questo momento Tatiana Lemus Silva. Buongiorno Tatiana. Buongiorno Enzo. Tatiana ha 25 anni, è una giovane imprenditrice del Guatemala e noi l'abbiamo definita anche un po' italiana perché ha studiato, conosce molto bene la nostra cultura, da cui è partita questa iniziativa, Tatiana, che ha portato il tuo gruppo a costruire una scuola materna. È così. Buongiorno a tutti. Per me è un onore avere questa opportunità di raccontare come è nato il nostro progetto di imprenditorialità sociale, cioè una scuola italiana in Guatemala, che comincerà dalla materna. Il nostro gruppo è composto di giovani e noi abbiamo trovato nella lingua italiana la strada giusta per scoprire un altro mondo totalmente diverso a quello conosciuto da noi. Allora, noi siamo giovani di un paese in sviluppo, se si può chiamare così, ma le opportunità di sviluppo sono limitate per noi giovani. Allora ci siamo detti che il nostro futuro dobbiamo prenderlo in mano noi. Il cambiamento deve iniziare dall'educazione, perché è così che siamo cambiati anche noi, grazie ai nostri studi di italiano. Tatiana, con questa affinità con l'italiano è stato importante, cioè studiare l'italiano, conoscere il nostro paese è servito a dare questa spinta e questo stimolo in più per rischiare con un'impresa? Assolutamente sì, assolutamente, perché per noi l'italiano ci ha dato degli ali e ci ha permesso di fare tanti sogni, di conoscere un'altra realtà. E vogliamo questo cambiamento anche per tutti i giovani del Guatemala. A che punto siete con la costruzione della scuola? Adesso la costruzione sta a cargo dell'Università di Roma, della Sapienza, e loro ci fanno il disegno, ma stiamo lavorando su questo. Grazie Tatiana, grazie, in bocca al lupo. Lucia Bonato da Torino non è in Guatemala, perlomeno non adesso. Buongiorno ora, professoressa, buongiorno, ci va buongiorno. Spesso. È lei che ha ispirato e in qualche modo sostenuto anche questo progetto italo-guatemalteco, è sì. Così? Sì, sì, in effetti Tatiana ha presentato bene il nostro progetto. La nostra idea è nata dal desiderio di non disperdere quello che avevamo costruito insieme ai miei studenti nei corsi di italiano che io ho tenuto per 4 anni in Guatemala, che hanno portato non soltanto delle conoscenze lessicali, grammaticali, letterarie, direi un entusiasmo proprio contagioso, ecco, l'apertura di nuovi orizzonti, la creazione di nuovi ideali. E così abbiamo scelto di creare questa impresa, diciamo, che segue la nostra vocazione didattica e culturale. Abbiamo scelto di lavorare proprio sui due fronti, quello didattico-culturale da un lato e quello economico-aziendale dall'altro, proprio per stimolare diciamo l'imprenditorialità dei giovani e dare un futuro diverso e di valore, diciamo. In entrambi i casi direi che siamo all'avanguardia, da un lato perché vogliamo insegnare a pensare, che è una cosa sempre un tantino rivoluzionaria, e dall'altro perché intendiamo creare una scuola di cui i maestri siano i proprietari e che dunque abbiano in mano il loro futuro. E naturalmente per fare questo abbiamo un dichiarato scopo di lucro, perché non si può pensare a uno sviluppo senza che questo sviluppo generi un reddito, diciamo, che lo renda sostenibile. E questo è un po' lo scoglio maggiore che incontro quando parlo di questa nostra impresa, cercando magari di trovare spazi in qualche progetto, perché a tutti i livelli istituzionali la cooperazione, che pure poi ha gli stessi obiettivi nostri, arriccia il naso non appena sente parlare di lucro. In realtà, ecco, come diceva Tatiana, un primo appoggio ce l'abbiamo trovato nei professori Terranova e Gioffredi del Dipartimento Itaca di Roma La Sapienza, che stanno elaborando il progetto dell'edificio, però l'edificio lo costruiamo con le nostre risorse. Speriamo, professoressa, anche con le risorse di qualcuno che ascolta, chissà, anche qui in studio. Ringrazio e soprattutto apprezzo molto anche il tentativo che ha fatto, parlando così veloce, di comprimere i tempi e i concetti, sapendo che la radio non ha grandissimi spazi. Spero di risentirla, la seguiremo, ci tenga informato sugli sviluppi. Grazie, professoressa. Dario Bolis, effettivamente la questione se un'azienda è profit o no comincia a farsi pressante, comincia a ridursi il confine fra un'azienda profit e non profit quando si parla di sociale. Questa storia in qualche modo lo dimostra. Ah sì, è questo che anche nelle nostre esperienze lo dimostra. Abbiamo appunto fatto questo viaggio recentemente in tutta Lombardia e su un paio di province della Piemonte. Ecco, spiego bene ai nostri ascoltatori. Voi siete partiti, Fondazione Calipri, una delle più grandi fondazioni del mondo, fra l'altro, no? Sì, quindi, tra le prime dieci, che tanto per come dire, colpire l'attenzione dei nostri ascoltatori, elargisce quest'anno 213 milioni di euro fra, esatto, in vari modi, poi lo vedremo. Voi siete partiti con un furgone dove c'eri anche tu sopra, dico, attrezzati di tutto punto, per andare questa volta, come dire, la montagna che va da Maometto letteralmente, a incontrare il mondo dell'associazionismo lombardo. Quanta gente avete incontrato? Beh, quest'anno sono state quasi 3.000 persone, su tante 14 tappe in tutte le province. Noi abbiamo scelto di fare questo perché era un segnale doveroso, quello di andare sul territorio a incontrare le persone che magari difficilmente ci conoscono o vengono a Milano per conoscere le opportunità di essere sovvenzionate o finanziate con dei contributi. E quindi incontrando tanta gente, proprio come fosse un simbolico viaggio, un tour lungo queste strade, armati di buona volontà, di totem e di strumenti che ci permettevano di essere un po' ovunque, abbiamo capito che il mondo del no profit è in grande evoluzione anche dal punto di vista dell'impresa. Ecco, voi avete, non è stata una, cioè non andavate in giro con le banconote fruscianti nel taschino, evidentemente, ma andavate in giro a spiegare il funzionamento dei bandi, perché spesso le iniziative, l'attenzione, i progetti fanno fatica a partire perché c'è un timore reverenziale nei confronti dell'apparato burocratico, dei sistemi che forse sono complessi. Siete andati in giro tra Lecco, Monza eccetera, per spiegare che non è così, perché certo noi puntiamo ad avere progetti di grande qualità, questo va detto, però siamo sempre molto disponibili a andare incontro alle necessità degli enti no profit, anche nel caso in cui un progetto sia un buon progetto e magari non è fedelmente inquadrabile dentro le linee erogative. Ecco, quello che volevo sottolineare è che questo quindi il viaggio del furgone di furgoncino di Fondazione Calipri nel viaggio di Ferribot, coincide su un punto. Fondazione Calipri, in generale le fondazioni continuano a sostenere il mondo del volontariato e dell'associazionismo, soprattutto nei confronti dei disagi, delle problematiche o del bisogno proprio di assistenza primaria, ma stanno sempre più assumendo un ruolo di stimolo, di sostegno e addirittura in alcuni casi anche proprio di finanziamento di imprese sociali, cioè di imprese che danno lavoro oltre che affrontare temi che sono di grande attenzione per la società di oggi. Uno di questi, per esempio, lo vogliamo proprio citare, ci raccontare la sua storia a testimonianza di quello che abbiamo appena detto, è Furio Gramatica. Buongiorno Furio Gramatica. Buongiorno. Lei è della Fondazione Dognocchi e ci può raccontare una storia che parte da Fondazione Calipri ma che arriva ad un'impresa, fra l'altro anche, come dire, di grandi prospettive. Sì, in effetti mi trovo veramente nella posizione di poter testimoniare questa avventura che è partita in modo direi usuale, quindi con le prospettive di un ente che, come la Fondazione Dognocchi, che fa assistenza a 30 ospedali, lavora con i malati sulla riabilitazione e che fa anche ricerca statutariamente perché è un IRCCS. E come spesso succede si partecipa ai bandi. Spesso, visto che noi facciamo ricerca applicata, quando si arriva alla fine dei bandi ci si trova in una grossa difficoltà nel saltare il baratro tra i risultati del progetto e l'applicazione vera su larga scala, riproducibile, che possa passare anche il vaglio dell'industria. Abbiamo trovato in un'iniziativa che è partita da Fondazione Cariplo, che ci ha finanziato la prima tranche di ricerca, abbiamo trovato in questa iniziativa che si chiama TT Venture, promossa da Fondazione Cariplo, un accompagnamento vero e proprio dalla ricerca al mondo dell'imprenditoria. Quindi siamo stati effettivamente accompagnati a trasformare i risultati e le prospettive del nostro progetto in un business plan vero e proprio che abbiamo sviluppato, abbiamo presentato, che è stato approvato e per il quale abbiamo ricevuto una prima tranche di finanziamento che ha permesso di gettare le basi e di partire di questa impresa. Ecco. Sì. Furio Grammatica, in maniera semplice, perché da quello che leggo, che ho saputo di voi, certamente complesso come è, ma di che cosa si tratta esattamente? Qual è il progetto che è stato sostenuto e finanziato? Certo. La Fondazione Dognocchi ha da 30 anni al proprio interno, che è una cosa un po' peculiare, un polo tecnologico, quindi anche della ricerca tecnologica accanto a quella clinica e preclinica, diciamo biologica. Lo scopo è quello di fare delle apparecchiature, dei protocolli che possano poi servire per l'applicazione biomedica. Adeguandoci ai tempi, negli ultimi anni abbiamo introdotto lo studio delle nanotecnologie per la medicina, quella che si chiama nanomedicina adesso, che sia in Lombardia che in Europa sta crescendo molto. In particolare noi l'idea che abbiamo avuto è stata quella di utilizzare delle superfici strutturate in modo particolare dal mondo delle nanotecnologie, che permettessero di fare sia l'analisi che l'infusione di farmaci, che prendere dei segnali biologici, tutto attraverso la pelle in modo indolore, quindi migliorando molto l'applicabilità di questi metodi a casa del paziente, l'autonomia e la qualità della vita dei pazienti, anche quelli che hanno magari malattie croniche. Grazie Furio Grammatica. Ecco, questo, Dario, abbiamo pochi secondi, poi ci dobbiamo fermare, è la dimostrazione lampante di quello che stiamo dicendo. Il ruolo di Fondazione Cariplo, a prescindere da quanti soldi e come, e se li ha dati direttamente, di grande stimolo su un progetto di ricerca che mi sembra di grandissimo livello. Assolutamente, il tema della ricerca scientifica per Fondazione Cariplo è in grande espansione negli ultimi anni. Su questo fronte Fondazione Cariplo ha sempre incrementato le risorse a disposizione. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Siamo stati con Ferry Boat in Guatemala, dove abbiamo sentito la storia di una scuola un po' italiana, un po' guatemalteca, che nasce sotto l'egida dell'imprenditoria sociale. Poi con Dario Boris di Fondazione Cariplo abbiamo girato velocemente la regione Lombardia, i 3.000 volontari al mondo dell'associazione, ma anche dell'impresa sociale che Fondazione Cariplo ha incontrato per spiegare come funzionano i bandi e soprattutto come accedere ai finanziamenti. L'obiettivo della puntata di Ferry Boat di oggi e del suo traghettatore insergante è quella di dimostrare che il confine fra profit e no profit non è più così netto e che una grande fondazione come quella di cui stiamo parlando oggi, ma più in generale le fondazioni, possono assolvere un ruolo importante anche dal punto di vista del lavoro, ma perché no della cultura. Dario Boris, io leggo qua delle percentuali: dei 213 milioni di euro che raggirete quest'anno, ci sono delle percentuali importanti anche sull'arte, sulla cultura, abbiamo visto la ricerca scientifica, ma anche sull'ambiente, sull'energia. Assolutamente, siamo, diciamo, in controtendenza rispetto alla normalità di questi tempi. All'ambiente dedichiamo ormai una cifra importante, il 7% delle risorse disponibili, all'arte e cultura, che è un baluardo di Fondazione Cariplo, il 25% di questi 200 e oltre milioni di euro disponibili per il 2010, la ricerca scientifica il 14,5%, un altro importante filone su cui da sempre si concentra Fondazione Cariplo sono i servizi alla persona, che si attestano a circa il 20%, poi ci sono altri settori che ricoprono, dire, la restante parte delle disponibilità di budget. Ecco, signor Domenico Castronuovo, buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei è un'altra testimonianza vivente, lei e la sua impresa, anzi o meglio ancora la sua cooperativa Isparo, perché è un percorso che lei ha fatto, che voi avete fatto con Fondazione Caripro per arrivare poi alla nascita di una centrale biomassa a Brescia. Quindi siamo dimostrazione lampante di quello che stiamo dicendo, ma anche tocchiamo un tasto particolarmente delicato. Quando nasce la centrale biomassa di Brescia? Ecco, la centrale biomassa è una delle tante attività che la cooperativa Isparo svolge in questi anni, e brevemente vorrei solo citare che la cooperativa Isparo nasce per volontà degli operatori dei servizi psichiatrici dell'Ovest Bresciano per favorire l'inclusione sociale di pazienti psichiatrici proprio nell'ambito lavorativo, perché riteniamo che uno dei fattori che può favorire a vari livelli la cura della salute sia anche l'acquisizione di responsabilità all'interno di progetti di inserimento lavorativo. E in questo c'è la vocazione sociale, fortemente sociale, della cooperativa e il motivo del rapporto con Fondazione Calipro, immagino. Nello specifico la cooperativa ha comunque fatto riferimento a un tema che per noi è essenziale, che è quello dello sviluppo locale. Sviluppo locale che per quanto riguarda l'impresa sociale, che ne diventa il motore, deve essere uno sviluppo che deve tenere in conto la sostenibilità dello sviluppo da un punto di vista economico, ovviamente, da un punto di vista sociale e da un punto di vista ambientale. Quindi quando abbiamo pensato alle biomasse e quindi la realizzazione di questa centrale a Cologne, in provincia di Brescia, per il teleriscaldamento, per riscaldare appunto anche strutture pubbliche, l'abbiamo pensato come un'idea altamente innovativa, perché questo significava mettere in rete produttori, diciamo così, di biomasse, e nello specifico le biomasse da scarti, che sono dalle potature degli alberi, dalle vinacce, dagli stocchi di mais, tutto ciò che viene considerato oggi scarto nell'ambito agroalimentare. Quindi questo è un progetto molto innovativo, perché mette, diciamo, in rete i bisogni di occupazione dei soggetti deboli, il rispetto dell'ambiente, perché si utilizza appunto il concetto dell'energia rinnovabile per il riscaldamento, e in particolare la creazione di reti significative per noi come territorio, anche per dimostrare che i pazienti psichiatrici non sono solo un problema, possono essere delle risorse. Grazie Domenico Castronuovo. In buona sostanza, Presidente Giuseppe Guzzetti, salve, buon pomeriggio. Buongiorno. In buona sostanza, quello che stavamo commentando con Dario Bolesi, che è qui in studio, che mi sta aiutando in questa puntata dedicata ai viaggi di Fondazione Caripro, da profano, da mondo esterno, dico, la verità è che queste fondazioni, lei rappresenta anche l'ACRI, quindi tutte le fondazioni italiane, stanno per assumere un ruolo importante anche nel mondo del lavoro, e mai come in questo momento c'è un gran bisogno di spingere e stimolare l'imprenditoria sociale. Beh, le nostre fondazioni, che sono prevalentemente fondazioni erogative, cioè che non fanno in proprio delle attività ma sostengono i buoni progetti delle associazioni del volontariato, altre fondazioni, ONLUS, cooperative sociali, attraverso la loro attività ottengono due risultati. Il primo, di dare risposte a bisogni sociali, a domande sociali. Noi puntiamo molto sulla coesione sociale, il discorso dell'integrazione delle categorie più deboli, la disabilità, le persone a rischio di emarginazione, e attraverso il sostegno a questi buoni progetti si dà anche della occupazione. Oggi il dato emergente nella crisi economico-finanziaria che ha effetti immediati sul sistema produttivo, che però i servizi restano, questi bisogni sociali sono più che mai presenti. Abbiamo la fortuna di avere una rete importante di terzo settore, di volontariato, che dà queste risposte e dà tanta occupazione. Ecco, quindi risposta a bisogni sociali e occupazione. Oltretutto parliamo di un paese che, fra i tanti problemi che ha sicuramente un primato sul terzo settore. Siamo un grande paese da questo punto di vista. Non solo siamo un grande paese, perché abbiamo questa rete di migliaia di enti che operano per dare risposte a bisogni sociali che ormai la parte pubblica ha abbandonato, a rischio di ulteriore disgregazione sociale. Ma da noi il mondo della cooperazione sociale e del volontariato ha affrontato alcuni temi in maniera innovativa rispetto a tutto il resto del mondo, me lo consenta. Parlo proprio dell'inserimento lavorativo dei disabili. Nei paesi che ci vengono additati come più avanzati, il cosiddetto mondo anglosassone, piuttosto più attento nord, a questi certo. problemi, la disabilità è stata affrontata come eliminazione delle barriere, il disabile deve poter andare da, essere integrato dappertutto e il massimo di assistenza. Da noi la disabilità è stata affrontata con l'inserimento lavorativo, quindi una frontiera molto più difficile e complicata, con risultati importanti. Penso al disabile psichico, psichiatrico, che può svolgere un'attività lavorativa che aiuta il superamento delle sue crisi e lo inserisce a pieno titolo nella società. Queste sono le frontiere che il nostro volontariato, la nostra cooperazione sociale ha affrontato in questi anni, con delle sfide importanti che ha vinto, che sta vincendo, e noi come mondo delle fondazioni sosteniamo questi progetti di inserimento lavorativo del disabile fisico, ma soprattutto del disabile psichiatrico. Molto bene, grazie Presidente, la ringraziamo perché lei è una persona estremamente impegnata, siamo contenti, Dario Bolesi, non posso chiederti alcun commento su quello che ha detto il tuo Presidente, che è veramente un'icona da questo punto di vista, ma credo proprio che ci abbia portato correttamente a tirare una linea a questa trasmissione, a quello che abbiamo detto, non prima però di aver salutato Pina Panunzio, che è qui con noi, che non è un'impresa sociale, ma ci tenevamo a coinvolgere proprio per questo, perché essere un'impresa sociale oggi, specialmente con l'aiuto delle nuove tecnologie, può essere estremamente facile e anche di grande genialità. Per esempio Pina Panunzio, con le vostre gift solidar card, che hanno dato un contributo con Agile importante, stanno dando un contributo importante su Haiti. Abbiamo creato questa charity card di emergenza Haiti, che è una speciale gift card distribuita nei negozi e nei supermercati che hanno aderito all'iniziativa. Insomma, si tratta di 800 punti vendita, di una quindicina di insegne, tra cui The Spark, Adoro, Conforama, Esselunga. Tutti più grandi, insomma. Sì, Gigante, Iper, Tigros, Unieuro, ecco, sicuramente ne lascio fuori qualcuno. Come funziona esattamente? Io vado a fare la spesa, passo alla fine del carrello pieno e prendo una gift card. Euro, che si può trovare o alle casse dove l'ha collocata, ha deciso di collocarla Esselunga, che così facendo ha registrato delle performance davvero notevoli di migliaia e migliaia di carte vendute, oppure negli espositori delle gift card dei Pipoli. Si prendono dall'espositore, si presentano alla cassa come si fa con un normale prodotto, la cassiera fa passare il suo scan e in quel modo si fa un versamento di 5 euro a sostegno dei progetti di emergenza delle organizzazioni non governative. Avete qualche idea di quante a questo momento sono le carte vendute? Sì, in questo momento sono state vendute circa 15.000 card, questo l'importo relativo alla somma raccolta sarà poi trasformato in aiuti concreti per centinaia di migliaia di persone da Haiti da utilizzare per cibo, acqua potabile. Avete fatto questa esperienza anche con Banco Alimentare, vero? Sì, non è la prima volta infatti che Pipoli, che è leader nel settore delle gift card, si occupa di beneficenza. Abbiamo lo scorso anno creato la Charity Card per la raccolta fondi dell'oncologia che a Granda Onlus dell'ospedale Niguarda di Milano. E poi per Banco Alimentare. E poi sì, la Charity Card in favore del Banco Alimentare. Grazie Pina Panunzio, scusa ma ti devo interrompere perché i tempi, senti la sigla di sottofondo, ti ringrazio, ma avremo sicuramente occasione di riparlare. Dario Bolis, certo in una puntata non si può raccontare una storia così importante, ma forse è un po' più chiaro adesso che Fondazione Calpino non serve solo a finanziare associazioni di volontariato. Assolutamente, poi non serve solo a iniziative che vengono date per scontato, si punta proprio a elevare il livello progettuale e manageriale di queste realtà che, come diceva il Presidente Guzzetti, sono sempre più un pilone portante della nostra società. Grazie di averci seguiti, Ferribot torna sabato prossimo, vi ricordo che su www.radio24.it potrete ascoltare questa puntata ma anche tutte le altre. A presto.